e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, la nostra vita è segnata dalle rate, si rateizzano le multe, gli acquisti e le tasse. È un modo per allentare un po' la tensione e per dare un po' di respiro alle famiglie toccate dalla crisi nel cuore e nei denari. Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni ha firmato il decreto ministeriale che prevede la rateizzazione in 120 mesi delle cartelle di Equitalia dei contribuenti in difficoltà per la crisi. Già da oggi, se si vuole, si può chiedere appunto questa possibilità, questa opzione. Ad Equitalia, vi è mai capitato di chiedere una rateizzazione del fisco? Pensate di doverlo fare in seguito ad una cartella troppo pesante? Oggi vi spieghiamo come si fa e a partire da adesso e per tutta la durata della nostra trasmissione sarà con noi Giovanni Parente del Sole 24 Ore, che già saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. E la dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista ed esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore. L'abbiamo già in linea, buongiorno dottoressa Cerno. Buongiorno. Pronti entrambi a rispondere alle vostre domande all'800 24 00 24 oppure se volete scriveteci al 349 238 6666. Come sentite, oggi sono da sola, ma non dimenticherò insieme ai denari il cuore della nostra trasmissione. Salutiamo la nostra Nicoletta Carbone che domani tornerà puntuale. E allora, anche per il nostro benessere, le rate funzionano. Pensiamo ad esempio all'alimentazione quotidiana. Il nostro organismo ha bisogno di fare rifornimento nel corso della giornata a rate, con una distribuzione intelligente dei pasti che vengono solitamente sostituiti con un'unica abboffata serale. Almeno molti sono abituati a questa pratica. Ne parleremo con il nostro dottor Attilio Speciani, nutrizionista, e aspettiamo le vostre domande a partire dalle 11.30. Ma per finire, le rate non servono solo a guadagnare, non servono solo a pagare, servono anche a guadagnare. Si può infatti investire a rate scegliendo strumenti come i PAC, i piani di accumulo del capitale. Anche di questo tema parleremo tra un po' ed è un tema che viene approfondito oggi dal Sole 24 Ore nel nuovo inserto settimanale Risparmio e Famiglia. Infine, gli argomenti oggi sono davvero molti, anche per lo sport rateizzare è conveniente, permette di risparmiare dolori ed incidenti e guadagnare in forma fisica e performance. Dopo il GR delle 12 ne parleremo con il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Ma ora direi di partire. Salva Danaio. Equitalia ha pignorato tutto, la macchina, la bici, è un atto di prosciutto. Equitalia non cambia il suo programma, è entrata dentro casa e m'ha pignorato mamma. Equitalia fa indagini mirate, m'ha pignorato casa lasciandomi le rate. Giovanni Parente ride, ma guarda, qua gli artisti ormai hanno solamente questi temi per poter sbizzarrire la loro fantasia. E allora, di cosa parliamo quest'oggi? Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni ha firmato nelle scorse settimane, anche perché questo ormai è un provvedimento operativo, il decreto ministeriale che prevede la rateizzazione in 120 mesi, quindi 10 anni, delle cartelle di Equitalia dei contribuenti in difficoltà per la crisi. Vedo già che qualcuno ci sta chiamando all'800 24 00 24 per presentarci, raccontarci la loro situazione e farci delle domande su questo tema. Giovanni, la cronaca ci ha raccontato appunto tanti episodi anche molto pesanti nei mesi passati. Come mai siamo arrivati a questo provvedimento? Perché la rateizzazione, se non mi ricordo male, era già possibile. Assolutamente sì, era possibile la rateizzazione fino a 6 anni, che resta comunque possibile, sono quelli che si chiamano i piani ordinari. Però facendo una breve ricostruzione, c'è stata tanta polemica intorno a Equitalia, che è scaturita soprattutto durante l'ultima campagna elettorale. Appena il Parlamento ha iniziato a funzionare, ha approvato un ordine del giorno bipartisan, quindi insomma di tutte le componenti politiche, che miravano appunto a rendere più vicino alle esigenze, alle tutele dei cittadini, la disciplina della riscossione. Quindi sono stati fatti una serie di provvedimenti, tra cui il divieto di pignoramento sulla prima casa all'interno del decreto del fare di giugno-agosto, e nel decreto del fare era previsto appunto la possibilità di estendere la rateizzazione fino a 10 anni nei casi appunto di in cui fosse concluso conclamato il problema dovuto alle difficoltà economiche per colpa della crisi. Era necessario un decreto attuativo perché questa possibilità diventasse realtà. Dopo un po' di pungolo anche da parte del Sole 24 Ore, questo dei parlamentari, che insomma in ogni question time che c'era il mercoledì in Commissione Finanze ricordavano al ministro di dover fare questo decreto, hanno tormentato insomma Saccomanni su questa finalmente necessità. Il decreto è arrivato, è stato firmato mercoledì scorso. D'altronde le cifre parlano chiare, perché leggevo proprio sul Sole 24 Ore di questi giorni che, se non ho capito male, solamente quest'anno sono stati almeno 24 miliardi, questo è lo stock complessivo per cui si è chiesta la rateizzazione? È lo stock complessivo, non solo di quest'anno. Cioè aggiornato, aggiornato delle rateizzazioni complessivamente richieste. Insomma, allora, molti parlano di volto umano del fisco, in molti invece non ci credono affatto. Sappiamo che Equitalia ha un ruolo di riscossione che non le permette grande discrezionalità rispetto alle sue regole. Regole che però, in merito alla rateizzazione, appunto, sono cambiate molte volte negli ultimi mesi. Andiamo alla dottoressa Rosanna Cerno, la nostra esperta di questa mattina, peraltro commercialista, per cui immagino che probabilmente molto spesso le capiterà con i suoi clienti di mettersi a tavolino e studiare le opzioni che si hanno nei confronti del fisco, appunto per un po' alleggerire questo peso fiscale per molti contribuenti e anche aziende. Dottoressa Acerno, sono in molti i suoi clienti che le chiedono di rateizzare? Sì, soprattutto sono molti anche i professionisti che appunto mi chiedono come comportarsi con i loro clienti. Una precisazione che mi piace fare sempre e che ritengo opportuna è che comunque quando si arriva dinanzi ad Equitalia si può chiedere una dilazione sicuramente, quindi ci si può mettere a tavolino per chiedere dilazioni, e vediamo che negli ultimi anni sono state rese molto più agevoli le richieste di dilazione e quindi vengono fatte automaticamente. Però una cosa invece non si può fare, ancora molti mi chiedono, quella cioè di trattare una riduzione del quantum, cioè quindi del dovuto, quello proprio no. Sulla dilazione invece sono abbastanza aperti, perché la legge consente loro di avere una grossa discrezionalità. Allora, ci racconti un po' come si fa, qualora naturalmente ci si ritrovi in una condizione di difficoltà che magari qualche volta era già esistente e che si aggrava. Allora, in questo caso è possibile riaprire il discorso con Equitalia? Se già era in corso una rateizzazione si può procrastinare ulteriormente, ma ammettiamo appunto che nessuno abbia mai avuto bisogno fino a questo momento, invece improvvisamente la crisi morde e ci rende impossibile rispettare tutti gli oneri appunto fiscali, tutti gli impegni fiscali. Come si fa? Qual è il primo passo, dottoressa Cerno? Allora, il primo passo è capire a quanto ammonta il debito, perché se il debito ammonta fino a 50.000 euro, quindi è inferiore a 50.000 euro, la richiesta di dilazione si può fare ad Equitalia direttamente su carta semplice, ed Equitalia provvederà immediatamente a rilasciare un piano di ammortamento. Quindi qual è la cifra minima, dottoressa Cerno? 50.000 euro. Ecco, 50.000 euro. Quindi a partire da un debito di 50.000 euro si può chiedere la rateizzazione? No, non ho capito. No, fino a 50.000 euro si può chiedere una rateizzazione ed Equitalia la concede automaticamente. Ah, ho capito. È il contribuente una persona fisica fino a 48 rate, poi prorogabile per ulteriori 72 fino a 120 ancora, quindi diciamo 50.000 euro è l'importo del debito che consente ad Equitalia fino a 50.000 euro di concedere automaticamente la dilazione. Senza bisogno di dimostrare alcunché, in qualche maniera deve essere documentato lo stato di difficoltà? Esattamente. Niente. È un'autocertificazione sostanzialmente del contribuente in difficoltà. C'è una richiesta di dilazione, è un diritto del contribuente avere una dilazione, la concessione di una dilazione se il suo debito non supera i 50.000 euro, questo è importante dirlo. Poi è importante dire un'altra cosa, che le rate che Equitalia concede sono mensili, non possono essere inferiori a 100 euro, però il mancato pagamento ad oggi soltanto di 8 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla dilazione. Quindi è importante dire anche questo, che a differenza del passato, perché fino a giugno 2013 in realtà un contribuente che non riusciva a pagare due rate non consecutive presso Equitalia perdeva il diritto alla dilazione. E quindi, invece sono otto le rate che non, diciamo, che non devono essere pagate, peraltro senza comunicare alcunché ad Equitalia, ma magari se queste rate rimangono indietro e contestualmente il contribuente in difficoltà dice ad Equitalia: guardati, sono in difficoltà anche con queste, magari un attimino si chiude un occhio, dottoressa Cerno? Più che si chiude un occhio, diciamo che Equitalia si rinegozia, è disposta a rimodulare il piano di ammortamento e quindi a venire incontro al contribuente e a riformulare il piano di rateazione, quindi magari fare anche delle rate crescenti, quindi variabili. I primi mesi mi paghi di meno, poi successivamente mi pagherai di più quando potrai. Allora, fino a 50.000 euro, dicevamo, il contribuente può fare richiesta di rateizzazione ad Equitalia e in automatico questa deve concederla. Il tetto minimo invece qual è? Perché c'è un'ascoltatrice, Giovanni, Monica di Desio, che ci scrive: si può rateizzare una cartella di 600 euro? Cosa devo fare per accedere a questa possibilità? No, si può sicuramente rateizzare, bisogna vedere la convenienza. Però insomma, ecco, allora valutiamola questa convenienza, sulla base di che cosa la calcoliamo. Ci sono degli interessi di pagare? No, chiaramente ti porti un piccolo importo dietro per tanti anni, questo è l'unico aspetto. Però ovviamente si può fare, come diceva la dottoressa Cerno, si può rivolgere direttamente ad Equitalia, in questo caso con una richiesta. Il modello per la richiesta semplificata si trova già direttamente sul sito di Equitalia, quindi in qualche modo si può già precompilare, ci si presenta lì e si chiede appunto la rateizzazione sulla base appunto della cartella. Ma un ascoltatore appunto precisa: ci sono degli interessi da pagare? Perché dice: altrimenti lo facciamo tutti. Dottoressa Cerno, quali sono i contro, diciamo, di una decisione di questo tipo? Sì, allora, il contro intanto è che quando si va già da Equitalia non bisogna dimenticare che sul debito vanno pagati sia l'aggio della riscossione, che attualmente è pari all'8%. Che è un bel tema, infatti. Sì, che si paga sia sulle maggiori imposte non versate, sia sulle sanzioni, sia sugli interessi legali, che anche quelli vanno applicati in caso di rateazione. E attualmente mi sembra che siano intorno al 4,5%. Ammettiamo, dottoressa Cerno, mi viene in mente una situazione molto ricorrente in tempi recenti, che un contribuente sia in difficoltà, magari una piccola azienda, perché ha fatto un lavoro per lo Stato e, come lei sa, anche se c'è stato il decreto sblocca crediti, appunto, magari molti imprenditori ancora non sono stati pagati dalla pubblica amministrazione, però lui nei confronti del fisco deve essere corretto, no? E ammettiamo che chieda una rateizzazione appunto temporanea e improvvisamente viene pagato, no? Magari dalla persona a cui ha fatto un lavoro, o se in questo caso stiamo parlando appunto di enti locali o di Stato, come vogliamo. Si può interrompere la rateizzazione in modo tale da non versare anche tutti gli interessi del caso, insomma? No, quello che si può fare, intanto perché la legge lo prevede, è una compensazione, vale a dire, se il debitore nei confronti di Equitalia è anche creditore nei confronti dello Stato, si può chiedere direttamente ad Equitalia una compensazione con questi crediti. Una volta invece richiesto il piano di dilazione, l'unica cosa che è possibile fare è quella di estinguerlo prima del dovuto, ma pagando il tutto, non versando e quindi chiedendo la compensazione. Bisogna estinguerlo, però estinguendolo si pagano comunque sia l'aggio della riscossione che gli interessi. Ecco, quindi non è che possiamo estinguerlo pensando di evitare gli oneri futuri, in sostanza. Quelli vengono quantificati ugualmente, però. Esatto. Allora, chi sentiamo all'800 24 00 24, ma tra l'altro se volete scriveteci anche al 349-238-6666 al nostro indirizzo di posta cuoredenari@radio24.it, su Facebook, su Twitter, ci potete trovare ovunque. Intanto ascoltiamo quello che è successo a Giancarlo dalla provincia di Bologna. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a tutti, cercherò di non essere prolisso. Grazie. Dirigente d'azienda esodato nel 2007 a causa crisi ed eccesso di costo per tasse. Apro un SRL per tentare di fare il consulente. Mi accorgo che il costo-beneficio non è buono, la chiudo nel febbraio 2009. Dopo 3 anni vado all'Agenzia delle Entrate a cercare cosa è successo dei miei 3.000 euro di rimborso e scopro che l'Agenzia delle Entrate non si era accorta di un ravvedimento su 158 euro di IVA che risultavano non pagate, cosa che con l'Agenzia delle Entrate chiudo nella mattinata perché la CNA mi dà i documenti che mostrano il pagamento di 158 euro più umore e quant'altro, eccetera. Chiedo che dicano loro all'agenzia, alla Equitalia, che è tutto, mi dicono no, non si preoccupi, quando arriveranno a cercarla lei ha i documenti. Per fortuna non mi accontento e provo a chiudere, mando gli stessi documenti. Equitalia mi risponde in stile mafioso, vediamo il pagamento, non si può capire in maniera univoca che si tratti dello stesso, del pagamento a fronte dello stesso debito. Giancarlo, la sentiamo molto male, no, perché la sento male qualitativamente, com'è finita la vicenda? È ancora in ballo? Ce l'ho fatta pagando 800 euro di avvocato per chiuderla. Certo. E ora mio figlio, che è disoccupato, vorrebbe aprire la partita IVA. Non ci pensa neanche per niente. Ma non farlo assolutamente in Italia. Allora Giancarlo, grazie per la sua testimonianza che non è esattamente allineata, diciamo, al tema che stiamo affrontando questa mattina, ma come dire, dimostra ancora una volta quando le amministrazioni comunque fiscali non si parlano nelle sue varie ramificazioni. Giovanni. Allora, la follia è che che praticamente il fisco Italia ha 128 banche dati. Ecco. Soprattutto, come dire, in questi casi qui bisognerebbe comunicare istantaneamente, ma basterebbe un click per poterlo fare, cioè non dovrebbe essere il contribuente ad attivarsi. Stiamo parlando di un impiegato magari non tanto disponibile in questo caso. Oppure... Guarda Deborah, il problema è che secondo me il problema di dialogo tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni e anche quelle fiscali è un problema, insomma, serio. Insomma, per il redditometro stanno facendo un gran lavoro per farle comunicare tutte quante, adesso non si capisce perché, quando invece la situazione dovrebbe essere favorevole al contribuente, queste banche date non si parlano. E vabbè, allora a Question Time ci sono tanti temi da sollevare nei confronti del ministro Saccomanni. Sentiamo Eustachio da Matera, buongiorno Eustachio. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie per la disponibilità. Grazie a lei. Io sono un piccolo imprenditore e purtroppo sentiamo la crisi più che mai. Qui è giusto la rateazione perché comunque ci consente di respirare magari nei momenti in cui diventa più forte e pressante la necessità di dover assolvere i nostri debiti, però credo che questo altro non è che un rincorrersi senza mai trovare una soluzione, perché va bene, noi rateizziamo, mi dà una mano in questo momento, però io pago interessi, come ha detto prima la dottoressa, alla fine se voglio estinguerlo prima, comunque, perché magari la situazione si è risolta, gli interessi li devo pagare. E alla fine la soluzione qual è? Che noi diventiamo un paese che abbiamo i nostri problemi sempre dovuti alle rate, perché oramai è rate da tutte le parti e siamo insolventi nel momento in cui dovremmo avere liquidità. Quindi c'è bisogno di una mano che sia più concreta, piuttosto che questa rateazione, che va benissimo, perché alla fine noi piccoli imprenditori subiamo tantissimo la pressione di tutte quelle che sono i pagamenti. Ne siamo perfettamente consapevoli, Eustachio. Guardi, sa che sono le grandi battaglie del Sole 24 Ore, stare vicino agli imprenditori, soprattutto a quelli in difficoltà. Dottoressa Cerno, che ne pensa di quello che sosteneva appunto il nostro ascoltatore? Qua va bene, come dire, questo volto umano di Equitalia, ma mi pare un volto umano alla fine a metà. Gli oneri sono veramente molto significativi. Su quello ha perfettamente ragione, la mia massima considerazione, però vediamo il bicchiere, io dico sempre mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, vediamo i passi in avanti che sono stati fatti rispetto all'inizio, e quindi io saluto con favore queste misure che sicuramente sono state introdotte dal legislatore. Capisco perfettamente che sul problema degli interessi diciamo ancora si potrebbe fare, come ancora sull'aggio della riscossione. Qualcosa è stato fatto, ma non è sufficiente sicuramente. Certo. Ricordiamoci che aspettiamo un provvedimento che riduca ulteriormente l'aggio della riscossione, che si paga obiettivamente su, oltre che sul dovuto in termini di imposte non versate, anche sulle sanzioni e sugli interessi. Infatti era proprio il punto che mi stava suggerendo Giovanni Parente, magari per chi non ha idea di che cosa sia questo aggio, poi ve lo spiegheremo fra qualche minuto. Volevi precisare appunto... No, volevo precisare quello che ha detto Rosanna Cerno. È un po' come l'anatocismo, no? Gli interessi sugli interessi. Sugli interessi sostanzialmente. L'AGEA non è nient'altro che il corrispettivo che Equitalia e gli altri agenti della riscossione incassano per il lavoro che fanno, sostanzialmente. Certo. Però, per carità, è giusto che la gente venga pagata, che questo servizio venga remunerato, però l'8% però a prescindere dalla somma che deve essere restituita al fisco. Assolutamente sì. Che è veramente improbabile. Allora, ci ritorniamo fra qualche istante. Fra un po' abbiamo i mercati, ma dopo i mercati vi anticipo già che parleremo di rate utili per la nostra alimentazione quotidiana. Il nostro organismo ha bisogno di fare rifornimento nel corso di tutta la giornata a rate, come dicevamo in apertura, proprio con una distribuzione intelligente dei pasti che vengono invece solitamente sostituiti dai più con un'unica abboffata nel corso della giornata, preferibilmente serale. Ne parleremo con il nostro dottor Attilio Speciani, nutrizionista, che è già in linea con noi, pronto ad anticiparci in 30 secondi come approfondiremo questo argomento. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, davvero parliamo di rate e se le vogliamo vedere nello stesso modo abbiamo modo di distribuire i pasti in modo tale che siano funzionali, in modo che non dobbiamo pagare interessi stupidi ad altre persone, no? Che alla fine diventi qualcosa solo per noi. Una delle cose più semplici è la prima colazione, ne abbiamo parlato, chi ci segue su Radio 24 sa che la prima colazione è un nostro must su cui battiamo sempre, ha un significato per il controllo della glicemia, per il controllo delle diete, per il controllo del peso, quindi abbiamo modo di parlarne con simpatia. E avete sentito che anche il dottor Attilio Speciani si è calato perfettamente nello spirito del nostro programma di questa mattina, e allora prenotatevi anche su questo argomento all'800 24 00 24, continuate a scriverci e a chiamarci anche sul tema della rateizzazione verso il fisco. A tra poco. Give me five. All right. Adesso cercheremo di capire come mai questa canzone si sposa così bene con le indicazioni che ci darà il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, perché frazionare, distribuire e rateizzare anche a tavola, questo è il tema del quale parliamo tra un po', è il segreto per garantirsi l'energia giusta per affrontare la giornata con forza ed efficienza, sia fisica che mentale. Un consiglio semplice, ma che molti di noi non riescono proprio a seguire, a rispettare. C'è addirittura chi salta i pasti per risparmiare calorie, questione per me incomprensibile, Giovanni non ridere, c'è chi lo fa per risparmiare tempo, ma giorno dopo giorno la nostra salute e la nostra forma fisica ne risento. E allora, dottor Speciani, ancora buongiorno. Ci sente? Vero. Eccoci qua, un attimo che abbiamo qualche interferenza telefonica che adesso abbiamo sistemato. Le dico subito cosa mangia Sandro, un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666 il mattino. Crema di arachidi o di nocciola 100% naturali. Per me una bomba, ma insomma basta che componga bene la sua colazione, dottor Speciani. Fantastico, un abbraccio a Sandro, se posso dire, anche perché tocca un tema che è piacevole. Cioè, noi siamo abituati a considerare ad esempio il burro di arachidi come una specie di così aggiunta, quasi fosse un dolcetto alla fine di un pasto piuttosto che altro. In realtà lui ha detto bene, una crema di arachidi fatta senza sale aggiunto, senza zucchero aggiunto, ha un ricchissimo valore, un po' come se fosse la base dell'olio d'oliva, cioè dentro degli oli sani, e ha dentro delle proteine che sono sicuramente stimolanti. Potrà essere anche una bomba dal punto di vista calorico, ma ha un'azione di stimolo ad esempio su alcuni degli ormoni che poi ci fanno consumare il grasso durante la giornata, quindi come dire, è una scelta sensata, un investimento ben fatto. Benissimo, come dire, no? Senza che tra l'altro non contempla, almeno in prospettiva, in futuro il pagamento di interessi così inattesi. Dottor Speciani, un vecchio proverbio suggerisce: al mattino mangia come un re, a pranzo mangia come un principe, la sera a cena come un povero, come a dire che le rate funzionano anche a tavola. Ma le dico subito che un ascoltatore dice: a volte nella cena si cerca un premio consolatorio dopo una giornata di lavoro. È così? Allora, la differenza fra un premio consolatorio, che è il rimpinzarsi di cose, e il premio consolatorio, che è assaggiare delle cose buonissime in compagnia, caratterizza già una bella differenza, voglio dire, nel senso che se io, questa è una caratteristica davvero importante, questa distinzione del al mattino come un re, a pranzo come un principe, alla cena come un povero, in realtà può essere gestito se uno davvero fa una prima colazione ricca, come Sandro ci ha raccontato. Ecco che la fame con cui di solito la gente arriva alla cena, che mangerebbe prima le gambe del tavolo e poi va avanti col resto, no? Quindi un'azione in cui viene modulata bene la prima colazione consente di avvicinarsi alla cena con lo spirito di godersi la compagnia, ma senza per forza strafare. Ecco, io però so che il suo numero magico è il 5. Dunque, il numero, quello è un numero magico importante, perché consente davvero di potersi muovere, diciamo, impedendo delle enormi fluttuazioni dei livelli di insulina nell'organismo. Voglio dire, se io riesco a mantenere in equilibrio lo sforzo dell'insulina, quella che gestisce lo zucchero e gli zuccheri nell'organismo, sicuramente posso migliorare l'efficienza, posso migliorare il tutto. E quindi è per questo che nascono un po' le indicazioni a fermarsi a metà mattina, a metà pomeriggio, a fare una pausa, che non è solo una pausa di riequilibrio emotivo, ma anche una pausa di tipo metabolico, dove uno possa introdurre alcuni alimenti, alcuni cibi, con qualche distinguo. Che quando noi abbiamo le rate, non è che improvvisamente una rata è solo di capitale e l'altra solo di interesse. Capito? Dovrebbero essere ben bilanciate tutte e due, quindi il fatto di riuscire a mettere in moto anche uno spuntino, che sia ad esempio un frutto con qualche noce, con qualche mandorla, abbiamo nella nostra tradizione i panini, se fossero fatti con pane integrale, con dei prosciutti della nostra tradizione, con dei formaggi della nostra tradizione e con dentro un po' di due fettine di o un pochettino di foglie di insalata, ecco che abbiamo ricreato qualche cosa di estremamente positivo. Ecco, piuttosto che un sacco di prosciutto e tanta maionese, dottor Speciali. Esatto. Guardi, io le faccio i miei complimenti, perché non ho mai visto così attento ad un tema diverso dal fisco Giovanni Parente, che era veramente molto attirato dalle sue indicazioni sulla rimodulazione dell'alimentazione, perché per chi fa un lavoro come il suo, che è molto impegnativo, tutto spostato verso la sera, per cui viene la tentazione naturalmente di smangiucchiare, immagino, Giovanni, è chiaro che queste indicazioni sono molto interessanti. Fra un po' ci faremo dare dei suggerimenti da lei, dottor Speciani, su come gestire bene anche gli spuntini, appunto al posto del sandwich pieno di maionese, magari qualcosa di più salutare, ma non ci sono solo questo. Sentiamo appunto cosa chiedono invece i nostri ascoltatori. Antonello da Genova ha un'alimentazione un po' sbilanciata, perché naturalmente i suoi impegni di lavoro lo portano verso questa direzione. Antonello, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. E niente, volevo chiedere al dottore, siccome appunto mi alzo molto presto al mattino e faccio colazione alle 4 e spesso sono costretto a pranzare alle 10, dalle 10, 10:30, 11, uh-huh. e quando, per dire, la domenica o il sabato non lavoro, spesso mi alzo alle 9 e invece che far colazione passo direttamente al pranzo. Alle lasagne, Antonello? No, le lasagne no, però la pasta sempre, un piatto 100 grammi di pasta condita oppure riso, insalata, eccetera, eccetera. Volevo sapere appunto questo mio sbilanciamento di orario, provoca qualcosa, una controindicazione? Lei sta bene, Antonello, intanto adesso? Sto bene, ecco, no, sto bene, perché poi tiro avanti fino alla sera, mi mangio un po' di frutta a metà pomeriggio e la sera poi ceno. E quindi insomma tutto il suo sbilanciamento lo concentra nelle ore del mattino, Antonello? Presto, al mattino, alle 9:30, 10 io usualmente pranzo. Ecco. Grazie Antonello. Dottor Speciani, qua poveretto, lui non è che... Ha chiamato Antonello direttamente, che fa lui la trasmissione, cioè ha raccontato specificamente una modalità corretta addirittura di personalizzare, che è un altro dei temi comunque che voi state toccando anche adesso, perché ho sentito mentre ero in collegamento le varie situazioni, ognuno poi porta una propria necessità, una propria esigenza. Lui ha un'esigenza, un risveglio al mattino tra le 4 e le 4:30, non credo di essere l'unico, né Antonello, perché e quindi delle scelte alimentari che lui ha visto estremamente positive. In quel caso proprio l'aumento della quantità del mattino, come vedete, una volta che uno poi accentua nel corso della giornata il famoso spuntino, che magari nel suo caso non sono 5 ma sono 3 nel complesso della giornata, riesce poi a gestirsi fino alla sera senza arrivare in maniera stravolta, e quindi sta gestendosi molto bene. Il fatto di fare un brunch molto pieno, molto ricco, finalmente la domenica quando può dormire fino alle 9, è un dato estremamente positivo. E infatti mi è piaciuta molto la domanda che ha fatto Deborah, sta bene? Perché questo è l'elemento, ci dobbiamo confrontare con la nostra clinica, con la nostra realtà. Io credo che l'unica cosa che posso dire in aggiunta è davvero che alcuni di questi piani, se vogliamo simbolizzare le rate, a volte noi dobbiamo personalizzare i prestiti o le rate da pagare, cioè ad esempio molte persone, come nel caso di Antonello, possono avere, come dire, una maxi rata assolutamente personalizzata all'inizio della giornata per gestirsi poi la giornata in modo positivo. Senta, no? Dottor Speciani, l'ultima domanda che le devo fare io è l'ultima testimonianza invece di un ascoltatore, la prima è la mia, ma chi proprio dello spuntino non vuol sentir parlare? Né a quello di metà mattina né quello del pomeriggio, insomma chi non ama questa dilazione dei pasti, cosa può fare? Io suggerisco di provarci. Che bilanciando, no, non di provare per forza, perché ci sono persone che hanno questo bisogno, altre persone che semplicemente aumentando un poco la quantità complessiva da usare sia nel mattino sia nel pranzo, arrivano serenissimamente al momento del pasto successivo. Anzi, posso dire che per alcune persone, sempre tornando all'individualità, questo tipo di scelta mantiene attivo, lo dico così se lo ricordano tutti, un ormone, si chiama glucagone, quindi di solito quando lo dico fa ridere molto, e che rimane attivo e mantiene il consumo del grasso. Quindi vede che in realtà abbiamo proprio delle situazioni che devono essere, come i prestiti, come i fidi, come tutto, personalizzati per ciascuno in relazione alle proprie esigenze, e per trovare effettivamente il modo di stare bene in un rapporto col cibo, che è sempre energia. Benissimo, allora sì, avevamo l'ascoltatore che voleva chiederci un suggerimento a proposito del suo consumo molto sostenuto di arachidi. È caduta la telefonata, gliela faccio lo stesso, ma perché non siano salate, immagino, dottor Speciale. Assolutamente, ecco, allora, il concetto della frutta secca è che ha degli oli fantastici, ha un contenuto di proteine estremamente stimolante, dobbiamo però imparare a mangiarle non arrostite, non salate, ma semplicemente come la natura ce le dà, quindi semplicemente seccate, buone. Io suggerisco spesso, ad esempio, al posto del parmigiano, se uno ha delle reazioni, delle intolleranze, vuoi al latte o lieviti, di sbriciolare un po' di arachidi o di nocciole sulla pasta, che è un gusto buonissimo, bisogna proprio assaggiarlo. È vero. Per capire che è un dato positivo. Condivido, perche dopo aver conosciuto il dottor Speciani anche io ho cominciato a usare questi accorgimenti per arricchire la pasta ed altri piatti. Grazie dottor Speciani per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, a presto. Grazie molte, buona giornata. E invece quando alla porta bussa Equitalia, Giovanni Parente, qua l'appetito sparisce a tutti, immagino. Non è che sia proprio sempre quando si riceve la cartella esattoriale. Sempre in grato compito di parlare di cose brutte, vabbè. Specializzati sull'alimentazione che noi ti prendiamo volentieri. Abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, c'è pronta anche Giovanna da Bologna che invece ci vorrebbe raccontare, tra un po' la sentiremo, di una condizione di difficoltà naturalmente nella relazione col fisco che sta vivendo in questo momento, la sentiremo tra qualche minuto. Eccoci ritrovati in diretta, oggi sono da sola ma saluto Nicoletta Carbone che domani naturalmente torna con noi. Parliamo di rate a 360 gradi, pagare a rate gli arretrati con il fisco, alimentarsi a rate, quindi distribuire l'alimentazione nel corso di tutta la giornata affinché chiaramente questa abitudine vada a beneficio della nostra lucidità mentale e del nostro benessere fisico. Tra un po' parleremo anche dell'approccio a rate nei confronti dello sport e dell'investimento a rate, tutto questo fra qualche istante. Adesso torniamo invece alle relazioni con il fisco. Allora, quando siamo in arretrato, come poterci rimettere in regola attraverso i nuovi piani di rateizzazione che sono stati fissati da un regolamento che diventa proprio oggi operativo, vero Giovanni Parente? Esatto, da Equitalia ieri ci hanno confermato che accetteranno le domande che verranno presentate da oggi. Da oggi, allora, se si hanno debiti con il fisco o non solo naturalmente, entro i 50.000 euro, basta un'autocertificazione e Equitalia deve accettare appunto questa richiesta, altrimenti per situazioni più impegnative le procedure sono evidenti. Evidentemente più complicate, adesso le spiegheremo. C'è la testimonianza di Giovanna da Bologna. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Giovanna, telefono da Bologna. Scusate, ma sono un po' rauca, spero che mi non si però, la sentiamo molto bene, Giovanna. Ecco, io volevo portare questa testimonianza, anzi volevo sapere, avere da voi un'informazione di questo tipo. Io e mio marito avevamo messo su un'azienda di tipo artigianale, che purtroppo però per la crisi abbiamo dovuto chiudere, e ovviamente questo con grandi debiti. Fra i debiti che stiamo cercando di pagare ci sono anche 30.000 euro di IVA. Volevamo sapere se anche questi 30.000 euro di IVA noi potevamo rateizzarli e qual è il massimo di tempo in cui possiamo rateizzarli. Ecco tutto qui. Grazie Giovanna, naturalmente in bocca al lupo per la sua situazione che speriamo si possa ripianare al più presto. Adesso andiamo alla dottoressa Rosanna Cerno, ma anche Giovanni Parente alza la mano. Volevo capire se la rateizzazione era con il debito, era con Equità, già con Equitalia oppure con l'agenzia delle entrate? No, ancora non è arrivata Equitalia. Perfetto, quindi ancora non è intervenuta la riscossione. Allora no, tra l'altro ha fatto come sempre bene Giovanni a fare questa puntualizzazione, perché dottoressa Rosanna Cerno, se il creditore è un ente locale, magari la situazione ha determinate caratteristiche. Nel caso in cui invece si abbia il debito con l'Agenzia delle Entrate, le procedure per la rateizzazione sono diverse, perché ce lo stanno chiedendo molti ascoltatori? Sì, sono diverse. Allora, nel caso della signora, dell'ascoltatrice che ha appena telefonato, consiglierei a lei e a suo marito di andare subito in Agenzia delle Entrate e chiedere un piano di dilazione all'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'IVA. Perché siamo sotto i 51.000 euro, quindi mi ha detto che intorno ai 30.000 euro. 30.000, sì. Esatto, in quel caso alla signora conviene, se si vuole mettere in regola, perché non verranno addebitati alla signora l'aggio della riscossione, quindi l'8% sostanzialmente. Il piano di dilazione con l'agenzia funziona in questo modo: si va all'agenzia, si presenta appunto una richiesta, l'agenzia, l'ufficio emette un piano di ammortamento, quindi una dilazione, e si potranno pagare in rate trimestrali, quindi ogni 3 mesi delle rate, e per l'importo della signora siamo ad 8 rate trimestrali, le potranno essere concesse al massimo 8 rate trimestrali. Soltanto che la signora dovrà fare attenzione al pagamento delle rate e soprattutto alla puntualità. Perché? Perché il pagamento della prima rata è necessario proprio per perfezionare la rateizzazione che l'agenzia ha concesso. Importante poi è pagare le rate successive nei termini dei pagamenti delle rate diciamo stabiliti. Mi spiego meglio, la seconda rata dovrà essere pagata entro il termine della terza rata, perché se si va oltre, il problema è questo, che si decade automaticamente da quella dilazione che l'agenzia ha concesso e quindi tutto passa poi nelle mani di Equitalia con l'aggio della riscossione all'8% e le sanzioni al 60%. Allora, naturalmente speriamo che non si trovi in questa situazione estrema la nostra ascoltatrice, che riesca a rispettare questo piano appunto che potrà essere appunto formalizzato e studiato per lei. Tra l'altro stavo pensando, Giovanni Parente, ma ho letto male negli articoli che hai scritto tu insieme a tanti altri esperti del Sole 24 Ore, non esiste una come dire comparazione, una relazione tra la rata che deve essere versata e il reddito percepito dal nucleo familiare in difficoltà? Assolutamente sì, bravissima Deborah. La condizione che viene posta per poter concedere la rateizzazione a 10 anni sostanzialmente è quella appunto di un rapporto che deve esserci fra la rata e il reddito per quanto riguarda il cittadino, il cittadino persona fisica come tutti noi, o gli imprenditori individuali che si trovano in particolari regimi fiscali semplificati, i minimi, insomma, famosi minimi che abbiamo esempio, fatto tante volte. No, sì. Oppure il rapporto viene calcolato tra la rata e il valore della produzione per quanto riguarda le altre imprese sostanzialmente. Quindi questi parametri che sono via via in qualche modo crescenti, bisogna prima di tutto rispettare un parametro del 10% se si è azienda sostanzialmente, tra rata e valore della produzione. Man mano che il valore cresce può in qualche modo aumentare il numero delle rate concedibili. Invece per quanto riguarda le persone fisiche, appunto il rapporto è tra la rata e il reddito, con una soglia base del 20%, che può salire fino al sostanzialmente al 38% caso in cui si concede appunto le 120 rate, quindi 10 anni. Allora ci torniamo fra qualche istante su questi argomenti, perché adesso devo fare in un minuto di tempo un'operazione eccezionale, l'anticipazione degli argomenti che sono in edicola oggi sull'inserto Risparmio e Famiglia del Sole 24 Ore. Isabella Della Valle, buongiorno. Si parla anche di investire a rate in questo inserto con il piano di accumulo. Sì, allora parliamo di investimento a rate attraverso la formula dei PAC, che appunto, come giustamente dici tu, consente di spalmare l'investimento anche su base mensile e con degli importi abbastanza ridotti, parliamo nell'ordine del 100 euro al mese. Analizziamo appunto la formula dei PAC in contrapposizione anche con i PIC, che invece sono i versamenti in un'unica soluzione. Ecco, diciamo che il PAC è particolarmente indicato per chi non ha grandi importi a disposizione da investire e ha anche il grande vantaggio di permettere ai flussi di risparmio di essere investiti in maniera automatica ogni mese. E approfittare anche di quando il mercato scende, naturalmente si possono acquistare un po' più quote. Isabella, purtroppo non ho tempo, qua oggi veramente la puntata mi è sfuggita di mano, però vi ricordo oggi con l'inserto Risparmio e Famiglia ci sono anche tutte le indicazioni per utilizzare bene la banca online, e poi si parla appunto di investire a rate, e investire sui figli con i bonifici postali e tante altre cose, ma noi ritorniamo con Cuore Denari subito dopo il giornale radio. Ed eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, oggi senza la mia compagna di viaggio Nicoletta Carbone che torna domani. Vi ricordo, anzi vi ricorderete senz'altro, che settimana scorsa abbiamo abbinato la nostra trasmissione all'assegnazione di alcuni biglietti per andare a vedere la mostra a Milano di Andy Warhol. Non abbiamo comunicato i vincitori di venerdì, le persone a cui abbiamo deciso di assegnare appunto due biglietti ciascuno. Vediamo chi sono. Sono Massimo, Serena e Gianni, che ci hanno scritto su Twitter i loro messaggi, che erano attinenti naturalmente alla trasmissione di venerdì, quella sul cambiamento. Quindi vi contatteremo per chiedervi il vostro indirizzo e naturalmente poi potervi inviare i biglietti in modo tale da potervi godere questa mostra. Adesso andiamo al nostro prossimo approfondimento. Natura, nutrizione scientifica vi presenta Essere e benessere. Sì, è proprio vero che chi va piano va sano e va lontano. Parliamo degli sportivi amatoriali che passo dopo passo ottengono dei buoni risultati. Insomma, anche per gli amanti dello sport è importante non strafare ma fare a rate, che è il tema che abbiamo affrontato oggi per tutta la durata di Cuore e Denari. E insomma, anche in questo settore la gradualità paga. Con noi il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Ci ha raggiunto a sorpresa qua in studio e ci fa molto piacere. Naturalmente ancora con noi rimangono anche Giovanni Parente del Sole 24 Ore, la dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista, esperta del Sole 24 Ore sui temi appunto della relazione con il fisco, quando bisogna appunto rateizzare i nostri adempimenti fiscali. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a naturalmente intervenire in diretta sui temi di oggi. Ma cominciamo subito col dottor Confalonieri, perché è chiaro che fare attività fisica e attività sportiva vuol dire investire in salute. Sa che qua abbiniamo sempre il concetto e i temi del cuore a quello dei denari, quindi la salute è un investimento, lavorare perché questa sia sempre a posto. L'importante è che anche in questo caso si devono fare naturalmente gli investimenti giusti, cioè andare a stressare poco il corpo e i muscoli. Quindi come si fa ad approcciarsi ad una pratica sportiva con gradualità? Premesso che è correttissimo dire che la salute è un investimento per l'individuo, e lo sa, è un investimento per la collettività, e qua c'è molta meno consapevolezza, ma ne abbiamo parlato. E l'approccio deve essere graduale, deve essere rateizzato. Qui però il sistema è quello delle rate gradualmente crescenti nel tempo. Cioè, ma la rateizzazione iniziare... la blocco subito, perché voglio sapere, è valida solamente per chi non ha mai fatto sport in vita sua? Perché glielo raccontava a microfoni spenti, sì. Io sono una sportiva, ho rallentato un po' in estate, la ripresa è terribile, devo ricominciare a fare quasi tutto. Dunque, diciamo che per lo sportivo professionista no, lo sportivo professionista ha bisogno di continuità, se si ferma è un grosso problema, si ferma una volta all'anno, due o tre settimane e poi via, c'ha la sua giornata di riposo settimanale e basta. Per l'amatore, anche convinto come te, invece, spesso bisogna riprendere con tranquillità, con gradualità, quindi vedere, fare proprio un piano di investimento in salute, ma rifarlo ogni anno perché cambiano le condizioni del mercato. Quindi in questo momento sono cambiate... perché non accetto questo ghigno che ha in faccia. Sono cambiate probabilmente le tue condizioni e quindi bisogna fare il punto e vedere come investire su quest'anno, su quali prodotti, quindi su quale tipo di attività, per mantenere questo parallelismo che però indubbiamente è efficace. Quindi quale prodotto e quale tipo di attività e acquistarne in quale quantità, e cioè quanto farne per settimana, avendo ben chiaro che una volta che ci siamo convinti della bontà del prodotto saremo incentivati ad acquistarne sempre di più. Mi ha fatto sorridere quando diceva bisogna vedere che cosa offre il mercato, offre una condizione anagrafica che naturalmente varia e si alza. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, anche se volete chiederci dei suggerimenti a proposito dell'inizio di un'attività sportiva da zero, fatelo gradualmente. E allora qual è la regola aurea, dottor Confalonieri, appunto dell'inizio graduale, la classica mezz'ora di attività sportiva al giorno che voi date sempre? Dunque, voi medici sportivi. Sì, mezz'ora è il minimo per ottenere un effetto fondamentale sulle prospettive e sulla qualità della vita, quindi allungamento di una vita sana, almeno mezz'ora, possibilmente continuativa, magari anche suddivisa in diverse attività quotidiane. Nell'impossibilità di fare la mezz'ora possiamo dedicarci all'attività durante il weekend, ma in questo caso allora dobbiamo dedicare almeno 2 ore continuative all'attività, e quindi l'attività possiamo camminare, andare in bicicletta e poco altro, perché il resto è troppo stressante. La seconda regola aurea è l'individualità. Anche in questo caso, cioè è fondamentale non solo scegliere lo sport in funzione di quello che ci piace e di quello che possiamo fare, ma anche scegliere l'intensità a cui lo facciamo in funzione delle nostre caratteristiche. E qui abbiamo come parametro di riferimento ideale la nostra frequenza cardiaca, che va naturalmente tenuta sotto controllo. Stefano ci scrive: 3 anni fa non correvo per più di 20 minuti e secondo me era già bravo Stefano, perché io proprio la corsa non la sopporto. Tra un mese correrò la prima maratona in meno di 4 ore. Che ne pensa di questo? Si è allenato bene, già 20 minuti non è male. Io quest'estate ho cominciato a camminare e poi a correre, sono arrivato a 1 minuto e mi sono fatto male. E poi ha deciso per il nuoto. E sono passato al nuoto, ho cambiato prodotto. Sicuramente anche l'obiettivo di fare una maratona in meno di 4 ore, che è un tempo dignitoso, diciamo così, è non eccezionale ma buono, è un obiettivo ragionevole. Cioè con un allenamento anche di 2 o 3 volte a settimana si è in condizione in 3 anni di raggiungere un obiettivo di questa importanza. Allora, tra un istante parleremo anche di coloro che invece vogliono aumentare le proprie prestazioni, le proprie performance, che cosa devono sfruttare al massimo, come fare. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Ritorniamo però invece alla nostra simpatica relazione con il fisco. Quando non riusciamo appunto a pagare i nostri arretrati, una condizione crescente purtroppo negli ultimi anni a causa della crisi, Equitalia ha manifestato questo suo volto più umano, chiamiamolo così, ma in realtà poi non è che sia sempre così vantaggioso anche scegliere la rateazione o rateizzazione, come vogliamo chiamarla. Sentiamo allora cosa ci raccontano i nostri ascoltatori. Roberto da Milano, buongiorno. Roberto? Sì, buongiorno. Si era distratto? Sì, ero un attimo così che ascoltavo quello che diceva il dottore. Niente, io volevo solo sapere, gli interessi che applicano sulla rateizzazione sono spalmabili sugli anni richiesti o sono a scalare? Cosa intende per a scalare? Man mano che praticamente si rientra, man mano che il debito si riduce, esatto, di conseguenza. Perché io in pratica il primo anno avrei già pagato una parte del mio debito, però io continuo a pagare gli interessi sull'intero. Tutto. Ecco, sul cosa, è tipo tutto. Roberto, grazie per la sua osservazione, temo di non poterle dare una risposta molto positiva. Dottoressa Cerno, che ha ascoltato anche tutti i suggerimenti sull'attività fisica, qualora la volesse intraprendere o qualora volesse già migliorare le sue prestazioni se fosse una sportiva, che raccontiamo a Roberto, che cosa diciamo? Beh, che gli interessi vengono calcolati sul numero delle rate, quindi è come se per un qualsiasi finanziamento che si richiede presso un intermediario finanziario, quindi il pagamento degli interessi dipende dal piano di dilazione concesso, più sono le rate e più gli interessi in termini assoluti aumentano, cioè è così, gli interessi legali vanno calcolati in base al numero delle rate. E quindi insomma questa è una situazione che dobbiamo accettare così com'è? Sì, purtroppo sì. E poi, no, poi c'è sempre l'opzione che indicavamo prima, i question time del mercoledì e la pressione da fare al ministro Saccomanni per intervenire su questo. Giovanni no, Parente. Voglio dire una cosa, è emerso anche negli ultimi giorni che in legistabilità potrebbe essere fatto un intervento. Quindi vediamo, aspettiamo, vediamo, cerchiamo di capire. L'idea sarebbe quella di poter chiudere le cartelle messe negli ultimi 5 anni senza appunto l'applicazione di sanzioni e interessi, anche perché è questo poi lo snodo principale, insomma le sanzioni e interessi, e a cui si aggiunge poi l'aggio che è quello che riscuote Equitalia, fanno lievitare il conto notevolmente, quindi insomma questo potrebbe essere un aiuto in più ai contribuenti se dovesse arrivare. Allora, dottor Confalonieri ha una domanda sul tema, sì, che raccogliamo molto volentieri, ci dica. Ecco, qualora venisse questo, per chi sta già rateizzando rimane penalizzato perché non si è potuto avvalere di questo vantaggio, o ne potrà godere anche chi ha già cominciato magari da poco a rateizzare? Lo Stato non è che quando deve prendere dei provvedimenti pensa a come rendere delle condizioni più favorevoli per tutti. Quello però è un bel problema, sinceramente è ancora una cosa in fila e bisognerà vedere, però temo che sia iniziata la rateizzazione. Con la mini patrimoniale sono intervenuti su investimenti già esistenti? No, perché non fare questa faccia, Giovanni, quando parliamo appunto del fisco che non è tanto eco. La mini patrimoniale va a pescare sugli investimenti delle persone fatti da tanto tempo, insomma non è che si pesca su investimenti nuovi. E invece quando bisogna studiare dei provvedimenti che possano andare a vantaggio della platea dei contribuenti è sempre più complicato, non si capisce perché. Giovanni da Sassari, buongiorno. Giovanni? Dov'è Giovanni? Allora andiamo a Luca da Ferrara, che invece è un ciclista. Luca, buongiorno. Buongiorno, saluto, buongiorno. Ci dica. Dunque, io mi riferivo al fatto del fatto che mi sono fermato durante la stagione per un mesetto, dovuto a un piccolo intervento che ho avuto. E praticamente sono ripartito verso il 20 di giugno e da allora accuso comunque dei dolori ai reni e dolori alla schiena. Quindi insomma problemi fisici nuovi che prima non aveva mai avuto. Esatto, Luca. Mai avuto. Posso chiederle quanti anni ha? Io ho 46 anni, vado in bici da 10 e i miei ritmi sono abbastanza alti, sono un amatore. Però delle medie abbastanza alte, faccio sui 8.000-10.000 l'anno. Insomma, però ha esplorato adesso questa nuova condizione fisica con questi doloretti, esatto, alla ripresa dell'attività. Dottor Confalonieri, come si fa presto a perdere la forma fisica? Pazzesco. Sì, in questo caso c'è stata la variabile intervento. Quindi probabilmente questo intervento ha modificato qualcosa nella biomeccanica, nella gestualità del nostro amico e sono emersi dolori a livello lombare che sono tipici del ciclista, che ha modificato qualcosa in termini di posizione in bicicletta o di movimento in bicicletta. Quindi è tutto riconducibile purtroppo a questo intervento non meglio specificato, ma normalmente gli interventi nei ciclisti sono sempre per problematiche nella regione pelvica, diciamo, e quindi poi si riflette direttamente sulla posizione in bicicletta e sulla colonna. Dottor Confalonieri, senta quello che ci racconta Simona da Ravenna. Mio marito consegna pacchi di acqua tutto il giorno e sostiene che si tratta di attività fisica pari all'andare a correre o camminare. Aiutatemi a fargli capire che sbaglia. E invece mi schiero col marito, nel senso che è un'attività fisica più stressante e più allenante, però è anche più usurante, nel senso che è un'attività di forza e fatta per brevi periodi, perché immagino che lui si limiti a trasportare il pacco dal camion alla sede dove deve portarlo. Quindi sicuramente è un soggetto allenato sul piano muscolare, un po' meno allenato sul piano cardiovascolare. Quindi diciamo che hanno ragione tutte e due, via, mettiamo pace in famiglia. Allora, ritorno un attimo alla rateizzazione con il fisco. Giovanni Parente, che cos'è l'ISR? No, perché io lo confondo con l'IRS, che è l'indicatore sintetico di costo, con l'ISC, che è un'altra cosa. Abbiamo questo indicatore della situazione reddituale, ma ce ne parlavi anche prima, no? Quanto anche il reddito che viene percepito all'interno del nucleo familiare poi condiziona la possibilità di pagare a rate il fisco, sì, e gli arretrati. Sì. No, l'IRS è un indicatore di situazione reddituale. Come si ottiene? Presentando il modello ISEE, che è il modello che noi utilizziamo anche per altri tipi di prestazioni, ad esempio l'accesso ai ticket mensa per gli asili nido o per quanto riguarda anche altri tipi di prestazione, l'acquisto dei libri scolastici. Anche quello in eterno tentativo di riforma. Non ne parliamo, perché cioè, doveva essere pronto dal 1 maggio 2012, quindi allora vediamo qua, un po'. Allora ditelo, ecco. No, il problema sì, è questo sostanzialmente, perché per questo tipo di rateazione straordinaria viene definita quella a 10 anni, è necessario appunto documentare che la situazione economica sia peggiorata, ma anche un livello di solvibilità. Ecco, queste sono le condizioni che mette. Quindi quando ci si reca per chiedere la rateazione straordinaria o per chiedere la proroga di un piano di rateazione in corso in rateazione straordinaria, quindi portarlo fino a 10 anni se si è appunto nelle condizioni di poterlo fare, bisogna portare il modello ISEE, da cui appunto viene estratto questo indicatore della situazione reddituale, e Equitalia appunto può decide appunto se concedere o meno la rateizzazione molto lunga. Un'ultima domanda sul tema, no, forse riusciamo anche a prenderne altre, sul tema della rateizzazione con Equitalia e quella di Bruno da Roma. Poi, dottor Confalonieri, c'è anche una questione posta per lei da Alessandro dalla provincia di Livorno. Andrei però a Roma. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho realizzato in 24 rate una cartella, ma mi è sfuggita una cartella con 5 giorni di ritardo, l'ho pagata. Cosa mi succederà? Mamma mia, speriamo niente. Bruno, dottoressa Acerno, una rata pagata in ritardo per una svista in totale buona fede da parte di Bruno? No, non succede nulla assolutamente. Se si tratta di rata, ma a me sembrava di aver capito una cartella. No, la cartella gli è arrivata e l'ha già rateizzata in 24 rate. Una di queste 24 gli è sfuggita per una svista. Perfetto. Di pochi allora giorni. Nulla, perché ripeto, si decade dalla dilazione solo se non si pagano 8 rate. quindi il pagamento è in ritardo. Adesso conviene all'ascoltatore andare da Equitalia e comunque chiedere il pagamento a della rata, diciamo, che non è stata ancora pagata. Si farà un piccolo ravvedimento, vuol dire che si pagherà. No, no, ma lui l'ha già pagata, sanzione. L'ha già pagata, dottoressa Cerno. Allora teme però delle, nulla, così, delle ripercussioni. Nulla. Quindi Bruno può stare tranquillo, qualora le succeda qualcosa, ci scriva e vada con questa registrazione agli uffici di Equitalia. Perché guardi che è già capitato, qualche ascoltatore l'ha anche fatto. Voi non ci crederete mai, ma qualche ascoltatore con la registrazione dei nostri programmi va anche a contestare in banca o in altri luoghi. Chi sentiamo? Alessandro dalla provincia di Livorno, invece alle prese con l'attività fisica. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie della chiamata. Volevo chiedere al dottore, io faccio come sport un po' di ciclismo. Uh-huh. E volevo sapere, siccome ho visto che sopra la mia soglia, sopra i 170 battiti, io perdo un sacco di prestazione, proprio il mio corpo collassa. E voglio sapere due domande: com'è possibile con l'allenamento migliorare questa frequenza, quindi, cioè, stabilizzarla un po', e poi se esiste una correlazione, cioè se funzionano, se servono l'uso degli antiossidanti e dell'omega 3 nella nostra alimentazione per lo sport. Ah, mannaggia, abbiamo perso Speciani adesso, però credo che Confalonieri saprà allora, tutto. Alessandro deve un po' diminuire l'intensità dei suoi allenamenti? Sì, assolutamente sì, anche perché c'è molta confusione. 170 non è sicuramente la sua soglia, cioè l'intensità alla quale comincia ad accumulare acido lattico, ma è quasi un'intensità massimale. A questo proposito pubblicheremo sul sito sia di Cuore Denari sia di Essere Benessere una formuletta appena studiata all'Università di Losanna, che trovo molto valida per calcolare le frequenze cardiache a cui scegliere di allenarsi in funzione dei propri obiettivi, che non sto a spiegarvi adesso perché è più complessa, spiegata da me, che non calcolare una rateizzazione. Per quanto riguarda invece il discorso degli omega 3 e degli antiossidanti, gli omega 3 hanno un effetto antiossidante, sicuramente chi fa sport produce in quantità maggiore radicali liberi e quindi possono favorire uno degli effetti negativi legati all'attività sportiva. Allora, l'ultima domanda era quella di Amilcare della provincia di Roma, che non riusciamo a raccogliere, la leggo io. Ha già una rateizzazione in corso da 72 euro immagino per rata, chiede se può allungare la quantità delle rate e pagare di meno, quindi rinegoziare in questo senso. Credo che ci sia la possibilità di fare una proroga ordinaria o straordinaria, Giovanni Parente. Assolutamente sì, cioè bisogna valutare meglio la sua situazione, però lui può sicuramente... In teoria da oggi è possibile, però bisognerebbe avere qualche dettaglio in più. Intanto io grazie a tutti voi per avermi fatto compagnia in questa ora e mezza in conduzione da sola. Domani la mia Nicoletta ritorna. Dottor Confalonieri, abbiamo detto tutto sullo sport a rate? Direi proprio di sì. Ottimo. Rapidamente, ma penso di essere riuscito. Tanto la ripeschiamo al più presto, sì. Così come riacciufferemo Giovanni Parente. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E dottoressa Cerno, a presto anche a lei. Grazie, grazie, grazie molte, grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi per la collaborazione e l'aiuto in redazione, Rudy Cantadori in assistenza tecnica. Noi torniamo domani, a tutti buona giornata.